Archimede, tra passato e futuro, di Maurizio Melis. Storia del vento. Chissà cosa dovette pensare Martha Pocock quando il padre George Pocock le propose di farsi appendere a un aquilone. Così fece George, sollevando la figlia a oltre 80 metri di altezza. Siamo nel 1825 e Martha è il primo essere umano occidentale a essere sollevato da un aquilone. Ma come vedremo, gli aquiloni hanno una storia molto molto ricca anche di altri aneddoti strani. Ma perché vi parlo di aquiloni? Perché pare proprio che in un futuro molto prossimo, che quasi si confonde col presente, gli aquiloni torneranno prepotentemente sulla scena, permettendo uno scatto, un balzo in avanti nello sfruttamento del vento, che torna come fonte di energia e potrebbe forse anche tornare come fonte di propulsione. Insomma, questo è il tema della puntata di oggi, il ritorno del vento. E allora ne parliamo con due esperti, per così dire, dell'aquilone moderno, quello che va per la maggiore anche tra i surfisti. Mi riferisco al kite. Gli ospiti di questa puntata sono Carlo Perassi, buongiorno Perassi. Buongiorno. L'altro ospite è Pietro Cambi, buongiorno Cambi. Buongiorno. Allora, entrambi, sia Carlo Perassi che Pietro Cambi, sono coinvolti in WOW, Wind Operation Worldwide. È una società che si occupa di sviluppare, diciamo, l'eolico di seconda generazione o di terza generazione, insomma, quello che si prevede, si spera, si immagina sarà l'eolico del XXI secolo. Allora, abbiamo detto che ci potrebbe essere un ritorno degli aquiloni. D'altra parte, il recupero del vento come fonte di energia ha già fatto resuscitare negli ultimi anni un'altra tecnologia del passato. Sentite qua. Sansa! Accorre, accorre, già che io scorgo laggiù 30 o pochi di più smisurati giganti con i quali intendo battagliare. Si da ammazzarli tutti. Taluni hanno braccia lunghe che pare tre leghe. Ehi, Lucia! Ma cavalier per te sempre la corsarma! Lo vedi che Don Chisciotte nel novellamento in sella pronto la pugna con generosa baldanza ai giganti! Ebbene, eccoci di nuovo in studio. Era uno stralcio dell'opera teatrale Hidalgo. Questo qua, insomma, era l'inconfondibile Don Chisciotte, forse nel, come dire, vertice, nel momento di picco della follia, pronto, insomma, ad avventarsi contro i mulini a vento che, dopo aver macinato grano, pietre e pompato acqua nel passato, a partire dal XII secolo, cominciò tutto in Persia, sono tornati sotto forma delle moderne pale eoliche. E pensate che nel 2009 si è installata nel mondo più potenza eolica che di qualunque altro tipo. E le grandi pale, insomma, stanno diventando un elemento comune nel paesaggio, anche con qualche mal di pancia, proprio per via dell'impatto paesaggistico. Allora, Pietro Cambi, io le propongo di partire a ragionare proprio da questo punto. Perché c'è bisogno, le chiedo, di impianti così grandi? Diciamo che le turbine eoliche più potenti, che arrivano a produrre 5 megawatt, sono alte più di 100 metri. Perché così grandi? Perché non se ne potrebbero fare tante piccole, per esempio? Ma è la prima risposta, poi spiega anche perché poi il passo successivo diventa gli aquiloni, ovvero che il vento aumenta con la quota, come intensità, e aumenta come disponibilità di ore durante l'anno. E quindi c'è una prima risposta legata proprio alle ore equivalenti di lavoro annuali delle macchine, sulla quale poi si basa il bilancio economico di chi prova a installarle. E poi c'è un discorso di, come dire, di efficienza e di economie di scala, come sempre succede, a crescere con le dimensioni, ovvero si hanno meno perdite per attriti e per inefficienze varie delle macchine, si possono scegliere classi di macchine, tecnologie più avanzate e così via. Ovviamente c'è un limite, lei già accennava, insomma, tra le righe, al fatto che si raggiungono dei limiti che sono quelli strutturali, cioè del materiale che conosciamo e anche funzionali. Cioè, insomma, non si possono fare ancora più grandi e ancora più alte. Si possono fare un po' più grandi, si parla di progetti intorno agli 8 megawatt per singola pala eolica, però diciamo ci sono dei problemi, per esempio, di trasporto. Quando uno ha le pale, no, che sono lunghe 50 metri, 70 metri l'una, molto più lunghe delle ali di un 747, anche più pesanti, e si capisce che la movimentazione di una cosa del genere diventa così difficile che a un certo punto diventa un problema perfino via mare. Quelle più grandi infatti sono previste prevalentemente in mare, proprio perché si immagina di metterle su una chiatta, addirittura di farle galleggiare. Dove tra l'altro, sì, dove tra l'altro sul mare è ancora più difficile, perché bisogna ancorarle al fondo, insomma. Poi bisogna mettere degli elettrodotti sottomarini, insomma, sono insomma tutte complicazioni che danno, insomma, il senso delle problematiche crescenti, insomma. Ecco, insomma, qual è la soluzione per uscire da questa impasse? Diciamo, concettualmente bisogna cercare di spiegare le cose in maniera intuitiva, vediamo se mi riesce, un minimo di matematica, ma poca, giuro, insomma, va messa. E questa poca matematica è la seguente: la potenza del vento varia col cubo della velocità, se raddoppio la velocità ottengo 8 volte più potenza. Mm-hmm. Quindi se io raddoppio per esempio appunto la velocità del vento salendo in quota, trovo 8 volte più potenza a parità di area intercettata. Questo già dà l'idea di perché si va a cercare la velocità. Quindi no? Bisogna andare su quanto? Bisogna andare su. E per raddoppiare la velocità del vento bisogna salire, diciamo, alcune centinaia di metri. Questo spiega che siamo già fuori dalla possibilità di una macchina normale. Poi c'è un altro discorso. Noi sappiamo benissimo che se abbiamo una pala che gira, il mozzo della pala praticamente e la parte immediatamente vicina sono quasi ferme rispetto all'aria. Certo. Girano molto lentamente, le punte girano velocemente. Certo. Per il giochino che abbiamo detto prima, cioè per il fatto che la potenza aumenta col cubo della velocità, si tira fuori che quasi tutta la potenza è prodotta dalle ultimi metri dalle punte della pala di 70 dalle metri. Punte delle pale, insomma. Va bene, Cambi, e come si arriva così in alto? Possiamo arrivarci con un aquilone, cioè portando in alto, così in alto, solo l'ala, solo la parte che produce l'energia. Va bene, allora abbiamo detto che insomma l'aquilone c'entrava, ci siamo arrivati, e beh, l'aquilone insomma è un oggetto ricco di storia, sentite un po'. Le origini dell'aquilone sono antichissime. In Cina nel secondo secolo avanti Cristo furono usati addirittura in guerra. Il generale ribelle Wang Tang lanciò una flotta di aquiloni sonori sopra l'accampamento del nemico Liu Peng nella notte. Sugli aquiloni sonori è teso uno spago che vibra nel vento emettendo un forte ronzio. L'esercito di Peng, terrorizzato dal misterioso rumore notturno, fuggì abbandonando il campo di battaglia. In Europa è nell'Ottocento che l'aquilone smette di essere un gioco per bambini e diventa oggetto di studi. Nel 1826, dopo aver spedito la figlia Marta a 82 metri di altezza appendendola a un aquilone, George Pocock brevettò la Char Volant, una carrozza trainata da un treno di aquiloni capace di trainare un carro con 5 persone a bordo a 40 km orari. Il pittoresco Samuel Franklin Cody, texano, perennemente vestito da cowboy e accompagnato da un cavallo bianco, spedì il luogotenente della marina Grosley a un'altezza di 1200 metri in una navicella di vimini sollevata da un treno di aquiloni. Gli stessi fratelli Wright partirono proprio da aquiloni per inventare l'aereo, il quale altro non è che un aquilone dotato di motore. Nel 1963, Dominage Albert inventa il parafoil, un aquilone perfetto dal punto di vista aerodinamico ed essenziale dal punto di vista costruttivo. Molto simile a un paracadute acrobatico, il parafoil è un'ala di stoffa priva di strutture rigide, a cui il vento stesso fa assumere la forma giusta. Nella versione acrobatica è quello strano oggetto a metà tra un'ala e un paracadute, che chiamiamo kite. Archimede. Tra passato e futuro. Bentornati ad Archimede, lo dico a beneficio di chi dovesse essersi appena messo in onda. Abbiamo parlato fin qui con Pietro Cambi e Carlo Perassi di vento e di come nei prossimi anni potremmo vedere le prime centrali eoliche ad aquiloni. Allora, Perassi, come si fa a usare un aquilone per produrre energia elettrica? Nella prima fase è necessario salire in quota, quindi l'aquilone verrà portato su con dei movimenti, eventualmente con l'aiuto di ventilatori se non ci fosse abbastanza vento. Beh, sappiamo tutti come si fa, no? Si corre, si tira il filo e l'aquilone sale. Esatto. I cavi sono collegati a terra a dei rocchetti e a dei motori, quindi salendo i rocchetti si muovono e in questa fase la produzione di energia elettrica avviene. Per esempio, quegli aquiloni che si vedono tipicamente sulla spiaggia, la persona che li comanda in mano due rocchetti. Proviamo a fare il paragone col classico aquilone che si vede sulla spiaggia. Nel caso della macchina, al posto di avere due rocchetti e basta, saranno collegati rocchetti più grandi con dei motori. Quindi lo svolgersi, l'energia che producono verrà utilizzata in questa fase. Quindi abbiamo, come dire, che l'aquilone mano a mano che sale compiendo dei grandi otto nel cielo, tira il cavo e questo cavo fa girare un rocchetto collegato a un generatore elettrico. Quindi nelle fasi di trazione si genera, si produce energia elettrica. A questo punto, quando si arriverà alla fine della corsa, bisognerà recuperare. E qui una domanda tipica è: ma come allora dobbiamo consumare tutto quello che abbiamo prodotto? No, perché con movimenti particolari si riesce a portare il kite in modo da farlo discendere così che l'energia richiesta sia inferiore a quella che prima è stata prodotta. Ecco, perché poi il kite appunto è simile anche un po' a un paracadute, quindi voi praticamente lo fate sgonfiare tirandolo da un lato solo e questo viene giù un po' come se cadesse o quasi. In realtà non viene sgonfiato, viene solo sottoposto a una diversa azione del vento con un angolo variato, quindi la tensione tra i due cavi cambia, perciò non sente più la forza del vento come la sentiva nella fase di ascensione e lo si può recuperare consumando una frazione dell'energia richiesta. Diciamo ottenuta quando stava salendo. Ecco, da che altezza comincia a produrre energia e fino a che altezza lo fate salire? Ma l'impianto sperimentale parte da 200-300 metri. L'idea è di arrivare a 800 metri, anche oltre. I limiti saranno poi quelli della tecnologia. Il materiale dei cavi e tutte queste cose qua, insomma. Sì, la complessità dell'intero sistema, man mano che la tecnologia diventerà più matura, si potrà salire di quota. I limiti teorici sono ancora molto molto lontani. Ecco, vorrei far sentire un pezzettino di audio in cui si sente il suono che fa questo macchinario. Ecco qui, ecco, esattamente qui. Questo è proprio il suono del cavo che si svolge sotto tensione con il kite che lo tira. Siamo di fronte a una potenza notevole. Sì, questo suono deriva anche dal fatto che la velocità con la quale il kite vola è decisamente superiore al vento. Possiamo pensare che raggiunga anche 70-80 metri al secondo, che corrispondono a circa 280 km orari. La forza esercitata indicativamente a seconda delle configurazioni, cioè la trazione quindi sul cavo, esatto, può andare dalle 17 alle 70 tonnellate. Ecco, a proposito di potenze, qual è la potenza in gioco con uno di questi kite e poi con dei sistemi molto più grandi che state già in qualche modo progettando? Cambi? Vabbè, diciamo che partiamo sul prototipo, una macchina che è dimensionata per accettare gli sforzi fino a 3 megawatt di potenza. I limiti sono legati attualmente allo sviluppo dell'ala, cioè bene o male partiamo dal know-how del settore appunto aquilonistico, del volo libero e ovviamente dei kite, quindi sì, è uno sviluppo che è già in atto di tipo progettuale e per ora partendo da un'ala da intorno ai 40 metri quadri si ragiona in termini di circa 600 kW per il primo con 40 metri quadri, con un paracadute chiamiamolo così di 40 metri quadri. Sì, beh, diciamo, deve pensare a una versione un po' più evoluta e più fine dal punto di vista aerodinamico di un'ala da kite che sono sempre 15 metri quadrati al massimo. Gli sviluppi però prevedono, la macchina è già tutta dimensionata fino a 3 MW così come è, insomma, e aggiungo una domanda che diceva la quota. E i rulli sono studiati per poter avvolgere e svolgere 2 km di cavi. Quindi diciamo senza stare a riprogettare nulla, ma con quello che già abbiamo possiamo arrivare a 3 MW e 2 km d'altezza. È una questione anche normativa, come si potrà immaginare, insomma. Certo. Il motivo per cui i primi esperimenti si fanno sotto i 300 metri o tra i 300 e i 600 metri, è la zona più libera da regolamentazioni, da complicazioni. Tenga presente che oltre quelle quote cominciano a volare gli aerei, il volo vincolato, cioè il trasponder, le luci di posizione e tutte le altre cose, per quanto sembri strano, insomma. Certo. E ecco, quindi tutto è più complicato. Quindi un singolo kite può produrre, abbiamo detto, fino a circa 3 megawatt, volando a quelle altezze lì. A questo punto voi però state pensando già adesso, nonostante insomma siamo al prototipo da questo punto di vista, a un sistema molto più grande, addirittura si parla di un gigawatt, che è la potenza di una centrale nucleare. Come fate a far produrre un gigawatt a degli aquiloni? Con tanti kite, e ovviamente non più con questo metodo. In pratica si prevede che facciano e girare, si può immaginare, un treno assorbe energia, no? Se io trascino un trenino, il treno produrrà energia, ogni motore elettrico può essere invertibile. Certo. Se uno si immagina un treno fatto di tanti vagoncini, su ogni vagoncino è attaccato un aquilone, che vola, ciascuno ovviamente controllato in maniera autonoma dagli altri, con una specie di danza aerea molto bella, francamente, a vedersi. Ecco che arriviamo a quelle potenze, su diametri grandi. Io penso che... In un perché voi li fate girare in cerchio, vero? Girerebbero in cerchio questo trenino, proprio come il trenino dei bambini, girerebbe in cerchio su un grande diametro. E si parte da almeno 2-3 km di diametro fino ad arrivare a 6-7 km. Ovviamente sono aree molto grandi, anche se ovviamente non è che devono essere tutte impegnate. Al centro di quest'area si può tranquillamente pensare di avere... zone abitate senza alcun problema, ma se vogliamo stare, come dire, al di fuori di tutto, si può pensare a strutture che sorgano in mare, dove il mare non è particolarmente profondo, dove non vi sono rotte aeree troppo dense e così via. Allora adesso cambiamo, ma solo parzialmente, discorso, e lo facciamo a partire da un articolo comparso il 25 luglio sull'Observer, il periodico del Guardian. L'articolo è a firma di John Vidal. Sentiamo l'attacco. Le più grandi navi cargo del mondo viaggiano ormai a velocità inferiori rispetto ai velieri da trasporto, come il Cutty Sark, in servizio oltre 130 anni fa. Una combinazione di recessione e limiti imposti all'industria dei trasporti per le emissioni di CO2 ha convinto molti proprietari di navi ad adottare il passo lento per risparmiare combustibile. La velocità di trasporto è calata così da 25 a 20 nodi, ma alcune compagnie hanno puntato a una riduzione ancora maggiore, adottando una velocità di 12 nodi. La durata del viaggio tra USA e Cina, o tra Europa e Australia, è ora comparabile con quella che si registrava nell'ultimo scorcio dell'era dei velieri, quando a metà dell'Ottocento i clipper americani raggiungevano facilmente la velocità di 15 nodi, con punte di 22. Dunque Cambi, andiamo avanti con lei, perché lei si occupa anche di un altro progetto, perché diciamo il kite sembra poter in qualche modo riproporre l'utilizzo del vento anche per la navigazione. Ci sono in realtà diversi progetti, ecco, magari cominciamo da una brevissima panoramica, che cosa c'è in giro? Ma diciamo esistono progetti in cui, tutto considerato, quel che si fa è applicare il concetto che in area, in quota, vi è più area e per più tempo, e quindi portare la vela lassù, ma tenendola ferma. Quindi la vela svolge la sua tradizionale funzione di tirare la barca in una direzione, diciamo, vantaggiosa, la barca o la nave, e questo si esplica in maniera diretta, senza ulteriori intermediari, come dire, una riduzione del consumo della nave o dell'imbarcazione. Quindi è un po' come prendere uno spinnacchero oppure un'altra vela, a seconda dei casi, e spedirla a 200, 300, 400 metri di altezza. È stato anche utilizzato in Coppa America questa cosa, però non mai durante le gare ufficiali. Alcuni dei consorzio Oracle la usò in Coppa America, e la cosa era vantaggiosa. Non fu utilizzata in gara per motivi di manovrabilità della vela. Loro dovevano salire e scendere, avevano bisogno di rapidità. Portare sulla vela e ritornarla su non si esplicava in quei pochi secondi che loro hanno a disposizione per fare le manovre, certo. Però già il fatto che l'abbiano applicato, con tutti i metodi di calcoli che hanno, hanno dei budget di decine di milioni di euro, quindi possono calcolare molto bene, è una dimostrazione empirica del fatto che è vero, cioè che conviene salire in quota e trovare vento. E questi altri progetti quindi hanno questo limite, funzionano solo quando la nave va in direzione in cui la spinta del vento è vantaggiosa. Vi è un angolo morto, l'angolo di bolina per i velisti, dove la nave ovviamente se va non riesce a tenere le vele gonfie, certo, in modo che forniscano una spinta infatti utile. Normalmente queste navi in questi casi devono compiere un percorso a zig zag, tagliando tante diagonali una dopo l'altra. Insomma, lei dice, con questo sistema qua si va, ma non dappertutto. E allora voi che cosa avete pensato? E allora, semplicemente, lo stesso identico concetto, diciamo una versione marinizzata, quindi un po' più piccola, un po' più compatta, di materiali diversi, del Kaigen, è stato proposto come progetto europeo, con 8 parti di 5 paesi diversi, alcuni accademici, universitari, altri enti privati, come del resto la stessa Kaigen SRL, e di conseguenza è stato pensato di proporre un generatore eolico ausiliario di bordo, un generatore elettrico ausiliario di bordo, basato sugli stessi identici principi del Kaigen STEM, quindi una macchina un po' più piccola, perché sarà più compatta, quindi più facile facilmente implementabile anche in ragione degli sforzi a cui sottoporrà le strutture su qualunque nave, sul ponte qualunque della nave, e poi dopo eventualmente passare allo step successivo in cui il contributo energetico sarà invece sostanziale. Ecco. Questo progetto è già partito, quindi la CEI ha già riconosciuto la validità del progetto e è circa metà del percorso. Si prevede di fare le prime prove anche qui in tempo variabile fra 6 mesi e un anno. Molti ascoltatori non sapranno che le navi di maggiori dimensioni hanno motori elettrici e lavorano quindi con l'elettricità prodotta dai generatori diesel di bordo, che poi viene utilizzata anche per i sistemi. Il Kaigen si propone di ridurre questi consumi producendo una quota dell'energia di bordo elettrica e alleggerendo il carico col vento. Quindi partiamo da una piccola percentuale, qualche percento, quindi che serve solo per l'energia ausiliaria. Però l'intenzione è quella di implementare rapidamente una grossa percentuale dell'energia di bordo, fino ad arrivare in prospettiva a fornire la quasi totalità. La quasi totalità. Dunque, per Assi, Kaigen è un progetto tutto italiano e non è semplice, abbiamo parlato prima anche della potenza di questi aquiloni, gestire questi oggetti. Quali sono le eccellenze che si richiedono per sviluppare questo tipo di tecnologia? Ma gli ambiti sono sicuramente la meccatronica, software di controllo, la parte di aerodinamica, ingegneria aeronautica per i profili alari e i materiali per i cavi, i materiali per i kite stessi e la strumentazione di bordo. E tutte queste, tutte le competenze necessarie sono presenti in Italia, anzi direi forse proprio al massimo livello mondiale, è un po' un caso questo. Mi pare però che ci sia un paesello che ha già visto nascere un comitato no kite. Che cosa avete combinato? Perché sono arrabbiati a Berzano di San Pietro in provincia di Asti? Ma ce ne sono dette tante, le più fantasiose, dal disturbo del paesaggio ai volatili a rumori. In realtà sono, sia come rumori, sono minimi. L'impatto, parliamo di circa 100 metri quadri, una zona quasi 10 quasi metri disabitata. Per 10, in una zona disabitata, in un campo, in un ex campo agricolo, se non sbaglio, avete fatto gli esperimenti, no? È un terreno non più utilizzato, agricolo. Non ci sono state fatte fondazioni stabili proprio per ridurre ulteriormente l'impatto, perché è un impianto sperimentale. Insomma, come al solito, qualunque slancio progettuale in questo paese incontra delle complicazioni francamente incomprensibili. Bisognerà trovare il modo culturalmente di superare questo problema. Beh, credo che abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Grazie a tutti e due, grazie Carlo Perassi, grazie Pietro Cambi. Prego. Grazie. Grazie anche a tutti gli ascoltatori per essere stati con noi. L'appuntamento è per sabato prossimo.